Passiamo a una seconda domanda, cioè descrivere esempi di lotte che hanno avuto successo. Vabbè, che adesso abbiamo avuto già un paio di esempi abbastanza positivi, più o meno, vabbè che sono ancora de delle lotte che si portano avanti e che non sono tutt'altro che finite, però ci sono in pratica molte lotte che si possono descrivere che hanno avuto un successo non irrilevante, e molte di queste lotte sono per l'appunto incentrate sulle esperienze delle donne. E uno di questi esempi, oltre a quello della lotta contro l'incatenamento durante il parto oppure durante i mesi incinta, è l'esperienza delle donne violentate. Delle donne che subiscono violenze di diversi tipi nelle carceri stesse. So, there have been studies that have shown that. Negli anni 80, nell'Ohio, si cominciò a parlare finalmente del nesso tra aver subito violenza in casa delle donne e il nesso tra quello e le varie sentenze, magari anche di ergastolo, per molte donne per crimini violenti, diciamo, o per assassini o cose di questo tipo. Non ci si chiedeva mai, in pratica, però, cos'è che portò moltissime di queste donne a ricorrere a violenze estreme contro i propri mariti, per esempio, o compagni, o quant'altro. Ebbene, secondo diversi studi, il 50% delle carcerate hanno una storia in pratica di abuso violento nei loro confronti, e soltanto negli ultimi, magari nell'ultimo decennio o due, si comincia a ragionare sul perché queste donne commettono i cosiddetti crimini che commettono. Bene, allora, negli anni 80 molte donne si organizzarono all'interno delle carceri in pratica, chiedendo ad altre donne, ad altre carcerate, perché si trovavano in carcere. E così venne fuori che moltissime erano in carcere per aver ucciso o magari attaccato violentemente il proprio compagno, il proprio marito. E allora diverse donne si chiesero in pratica. Chissà quante donne magari sono in queste condizioni, magari hanno ricevuto l'ergastolo oppure qualche altra sentenza abbastanza dura per autodifesa, perché infatti di autodifesa si tratta. Però autodifesa mai riconosciuta. Poi Vicky sottolinea che stiamo parlando degli anni 80, agli 90, in cui proprio non se ne parlava nemmeno di abuso e di violenza domestica. E quindi questo era un po' una presa di coscienza all'interno delle carceri, che fu veramente all'avanguardia, diciamo, anche per quanto riguarda l'esterno delle carceri stesse. Quindi, in qualsiasi cioè, situazione, contesto, si trovavano queste donne che poi cominciarono a organizzarsi all'interno delle carceri dell'Ohio, cominciarono a chiedere a diverse donne, magari in fila per il cibo, alla mensa, oppure in fila mentre aspettavano un controllo medico. Cominciarono a chiedere delle donne come mai sono in carcere, poi a cominciare a farle raccontare un po' le loro storie. Così facendo, si organizzarono addirittura per fare una petizione per incontrare il governatore dell'epoca, cui nome ci sfugge, e lui inviò soltanto un assistente e sua moglie, che ascoltarono un po' queste storie raccapriccianti di queste donne che si trovavano in carcere per aver commesso certamente de dei crimini, tra virgolette, però per autodifesa, E allora riportarono il tutto al governatore. Il governatore così cominciò a svegliarsi un po' e magari ad agire. Alla fine il governatore decise di dare una clemenza a 25 di queste donne. 18 donne, che avevo menzionato prima, riuscirono a uscire dal carcere grazie anche a questo attivismo all'interno del carcere, che comportava anche non soltanto raccogliere testimonianze, ma rendere consapevoli le donne stesse del tipo di prove che potevano avrebbero avuto bisogno di recuperare per comprovare in pratica il fatto dell'autodifesa. E così facendo riuscirono a salvare 18 donne dalle carceri, e poi ci fu anche la clemenza, che fu un caso che scosse un po' gli Stati Uniti durante quel periodo, fine anni 80, primi anni 90. Fu una clemenza di, come ho detto, di 25 donne, e così mise alla luce tantissime altre cose, ovviamente anche e specialmente la violenza all'interno di casa, diciamo, di cui non se ne parlava, era un po' un fatto impronunciabile fino a quell'epoca. E quindi, cioè, questa lotta all'interno delle carceri fu di notevole importanza al di fuori, non soltanto all'interno delle carceri. And, this clemency made headlines. Questo si diffuse poi anche nella California. Molte donne poi si organizzarono, formarono addirittura anche un'organizzione che si chiamava Convicted Women Against Abuse. Convicted Women Against Abuse, cioè donne sentenziate, schierate contro l'abuso, contro la violenza, contro le donne, e riuscirono ad avere diciamo l'orecchio del governatore dell'epoca della California, Wilson, che si incontrò con loro e che poi concesse un tipo di clemenza, magari una diminuzione del periodo di prigionia e altre concessioni che riuscirono ad ottenere, questo nella California. Purtroppo Wilson decise di non incontrare le donne e ascoltare le loro storie, le loro testimonianze, cioè a confronto del governatore dell'Ohio. E allora disse invece che avrebbe dato magari un pensierino su una possibile clemenza soltanto per le donne che firmarono il documento che gli era stato inoltrato dall'organizzazione, e senza considerare nessun'altra, e senza voler introdurre alcuna legislazione in merito. Allora, alla fine poi diede tre dichiarazioni di clemenza e basta, a 7 le negò, e a 24 altre non fece alcuna decisione, e finì un po' così nella California, molto in negativo confronto all'Ohio. But one of the other results of their clemency campaign. Tutta questa attività all'interno delle carceri in California comunque attirò l'attenzione di avvocati e avvocatesse, che poi con magari ex carcerate e altri formarono un'organizzazione dal nome Free Battered Women, che significa donne violentate libere, e riuscirono tramite diciamo diversi circuiti legali, diverse pratiche, ricorsi alle corti a vari livelli, a scarcerare almeno 35 donne per questione di cioè per ragione di autodifesa. E questo nel 2008. Poi sicuramente ce ne sono state altre che saranno state liberate da quell'anno. E per Vicky questo, veramente, questo movimento delle donne incarcerate per casi di autodifesa, cioè quindi incarcerate ingiustamente, non è un movimento veramente riformista, ma veramente rientra benissimo nella logica delle lotte abolizioniste. Perché, dice, non stanno richiedendo magari dei trattamenti speciali, magari di essere trasferite in carceri più idonei, oppure di avere magari diversi tipi di concessioni che magari altre carcerate non hanno. No, loro chiedono di essere scarcerate, punto e basta. Quindi questo movimento veramente contribuisce notevolmente alla lotta contro il carcere to cure. Allora, per riassumere un po', perché c'è moltissimo da aggiungere qua, lei cita... cioè Vicky cita i casi del Massachusetts, della Pennsylvania, della California come anche esempi di come le autorità cominciano a rispondere a questi movimenti di carcerate, e la maniera in cui stanno rispondendo è con una formula, diciamo, tipo costruiamo o cambiamo le carceri così che siano molto più sensibili a questioni di genere, cioè sono messe proprio in questa maniera, cioè carceri sensibili al genere, e quindi in questo modo la risposta alle vittorie, in pratica, sebbene esigue ma però molto importanti, delle donne che si difendono contro mariti abusivi e che vengono incarcerate per quello, ebbene, queste vittorie stanno tramutando in potenziali sconfitte, nel senso che questi vari stati stanno introducendo delle prigioni in cui si possono accogliere ancora più donne di prima, cioè premettendo che adesso le carceri prima non andavano bene per le donne, ma questa volta invece le renderemo molto più idonee, avremo delle carceri magari più vicine a dove le donne hanno i loro bimbi e le loro bimbe, si possono essere più vicine alle loro famiglie, cioè si fanno discorsi del genere che in pratica consentono alle carceri di espandersi ancora di più, e per sbattere ancora più donne cioè dietro le sbarre, invece di mettere in questione il fatto che la maggior parte di queste donne che si trovano in carcere a causa della guerra alla droga, cioè la guerra agli stupefacenti che da queste parti a partire dall'amministrazione Nixon non fa che mietere sempre più vittime e carcerate e carcerati, e poi si trovano in condizioni penose perché dagli anni 90 ci sono stati tantissimi tagli enormi, anzi contro tagli dell'assistenza sociale, per esempio, che hanno colpito per la maggior parte delle donne, la maggior parte delle donne che si trovano in povertà a causa di queste politiche, tra l'altro indette anche dai democratici negli anni 90, invece di cercare le ragioni di cosa spinge queste donne a commettere, diciamo, magari questi cosiddetti crimini di furti vari, eccetera, invece no, si comincia a fare discorsi di costruiamo delle carceri che sono più idonee alle donne, ai bisogni delle donne in particolare. Quindi purtroppo c'è un movimento a livello istituzionale che cerca di omologare parte delle lotte svoltesi dagli anni 80 in poi per in pratica recuperare e espandere l'ingabbiamento, diciamo, di ancora più donne che, tra l'altro, secondo uno studio del 2006, in centinaia se non migliaia di casi non dovrebbero essere mai state incarcerate, perché si tratta di crimini non violenti, che ha a che fare soltanto con magari furti o tipo di crimini contro la proprietà o varie altre cose del genere, e che semplicemente avrebbero potuto usufruire di assistenza di vario tipo per essere integrate anche al lavoro, cioè anche secondo la logica borghese più becera si poteva fare anche questo ragionamento, invece no, si voglia espandere le prigioni e sbattere ancora più donne in carcere. Questa non è la prima volta, c'è un precedente storico per quanto riguarda l'imprigionamento, cioè l'incarcerazione delle donne negli Stati Uniti. So in 1874, Indiana established its first separate women's prison after Quaker reformers had led a campaign to end the sexual abuse of women who were being held in men's state prisons. Nello stato dell'Indiana nel 1874, nel 1874, per parlare un pochettino più chiaramente, si introdusse un nuovo tipo di carcere, specificamente per le donne, per contrastare l'abuso di ogni tipo che le donne soffrivano quandunque fossero state messe in carcere in quel periodo storico. E questo grazie a un movimento di protesta Quaker, una setta cristiana molto diffusa negli Stati Uniti, che voleva evitare che le donne fossero maltrattate nelle carceri, che avessero che non dovessero affrontare una terribile sorte una volta in carcere. Questo tipo di lotta per riformare le carceri oppure per evitare dei terribili abusi nei confronti delle donne, in questo caso sfociò invece nell'esatto contrario, di aumentare gli abusi tramite l'espansione delle carceri appositamente fatte per donne. In states where women's prisons were built, this led to an increase in the number of women sentenced to. Allora, dopo queste nuove leggi introdotte in diversi stati per accogliere le donne in carceri fatte solo per donne, nell'Illinois, per esempio, si costruì subito un carcere per sbatterci 100 donne dentro. Prima di queste legislazioni, i giudici, in pratica si parla soltanto di giudici perché non c'erano donne così alti incarichi nei tribunali, o cioè i magistrati, si direbbe, penso, in Italia. Sovente non volevano assolutamente dare alcuna sentenza che potesse comportare il carcere per le donne, perché erano consapevoli dei rischi, degli altissimi rischi che avrebbero dovuto affrontare le donne in carcere all'epoca, perché non c'erano carceri fatte soltanto per donne. E allora, con l'introduzione delle nuove carceri per donne, addirittura il numero delle donne in carcere si triplicò un po' dovunque negli Stati Uniti. Nel caso dell'Illinois, che c'erano soltanto storicamente 10 donne che sono state incarcerate nell'arco di cinquantina d'anni, qualcosa del genere, nell'arco delle decine d'anni dopo il numero anche lì si triplicò di donne sbattute in carcere, come se si aspettassero un aumento, e così costruirono le gabbie per metterci le donne dentro sempre più in gran numero. Io le ho chiesto com'è che vede questo nesso tra lotte per l'abolizione del carcere, o anche le riforme del carcere, come allo stesso tempo lotte contro il patriarcato, e lei aggiunge giustamente, che si deve pensare a questa lotta come una lotta per la trasformazione della società, e quindi in questo rientra anche un movimento contro il patriarcato, ma è veramente un movimento per la trasformazione dei rapporti sociali in sé, così che si possa non solo immaginare, ma mettere nella pratica dei rapporti sociali che non comportano assolutamente questa tendenza di sbattere dietro le sbarre la gente per risolvere dei problemi che sono dei problemi profondamente sociali provocati dai rapporti sociali stessi, come per esempio nel caso dei rapporti patriarcali. C'è da domandarsi perché moltissime donne sono messe in condizioni di povertà una volta che magari decidono di avere figli o figli, per esempio, perché il loro lavoro come dice Selma James, la mette così, cioè care work, lavoro di affetto, di cura, perché viene così svalorizzato, anzi per niente valorizzato, e questo poi provoca anche queste condizioni di disagio, di emarginazione di moltissime donne che poi si trovano a dover decidere tra riuscire a crescere figli e figli oppure a poter sfamare la famiglia. Cioè sono delle decisioni che sono veramente orrende, in cui sono obbligate a fare delle scelte che poi magari risultano in una sentenza contro di loro, in una incarcerazione magari per decenni, per avere in pratica tentato di sopravvivere in una società che respinge, non considera, diciamo, il valore di quello che contribuiscono. In questa chiave, allora bisogna vedere, in questa ottica bisogna vedere un po' questa lotta abolizionista come una lotta che per la trasformazione e quindi per il cambiamento di tutto un insieme di rapporti sociali, incluso quello patriarcale.